quella notte santa nella quale Gesù Cristo è risorto, nella quale sono cambiate tutte le cose, nella quale Dio ha fatto una nuova creazione. In quella notte santa e tutti dormivano, dormivano le guardie che secondo San Matteo erano state messe lì davanti al sepolcro per evitare che i discepoli rubassero il corpo, dormivano i discepoli pieni di scoraggiamento, dormivano le donne, sono andate a letto presto perché volevano alzarsi presto per poter andare con le prime luci dell'alba al sepolcro per completare quell'opera d'amore sul cadavere di Cristo, con i loro profumi, i loro unguenti, i loro balsami. Dormivano tutti quella notte. E io penso che in una certa misura, forse i discepoli dopo, quando hanno saputo quello che era avvenuto in quella notte, e vollero celebrare sempre, fin dall'inizio, l'Eucaristia proprio nella notte tra il sabato e la domenica, per rivivere quegli istanti, quei momenti. Forse non dovevano essere presenti, nessuno poteva assistere a quel prodigio così grande, a quel passare il corpo risorto di Gesù tra le sue bende, attraverso la roccia. Nessuno era previsto che vedesse quel prodigio, nessuno poteva forse resistere a quella luce così grande. E da allora i cristiani pensarono di celebrare nella notte tra il sabato e la domenica la messa, l'Eucaristia, che è principalmente il ricordo della sua morte ma anche della sua risurrezione. E forse da lì poi nacque la consuetudine della veglia, che è rimasta, e noi nella notte santa di Pasqua ci siamo riuniti insieme, idealmente insieme a tutti i cristiani di tutto il mondo, che nello stesso istante o in ore diverse per il fuso orario vivevano quell'attesa della risurrezione. Anche ci siamo uniti nella comunione dei santi ai cristiani di tutte le epoche, di questi 2000 anni, 2000 notti di Pasqua, e a quelli che verranno, tutte le notti di Pasqua future. Abbiamo vissuto insieme con loro l'emozione degli innumerevoli battezzati, catecumeni che ricevono la vita di Cristo nuova nella loro vita. Forse in quel modo, da allora, i cristiani desiderano dire a Gesù: ecco, vogliamo essere presenti nell'istante in cui tu ritorni alla vita, in cui fai nuove tutte le cose. Vogliamo ricevere subito, nella notte della nostra esistenza, nella notte dei nostri peccati, nella notte dei nostri limiti, la luce della tua risurrezione, la luce della tua grazia, la luce della tua vita nuova. E così in processione abbiamo durante la veglia cantato, no? La luce di Cristo che illumina la nostra vita. Abbiamo ringraziato il Signore perché questa luce illumina le nostre esistenze, illumina la vita del mondo e la vita di tutti, potremmo dire, insieme con Giovanni Paolo II, di tutti i sistemi economici, di tutti i regimi politici, tutte le realtà umane. Perlomeno questo è il nostro desiderio, il nostro augurio, la nostra preghiera. E però quella notte tutti dormivano e le donne per prime si sono alzate e sono corse al sepolcro. E così leggevamo nella veglia di questa notte dal Vangelo secondo Matteo: Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba, ed ecco vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Io sono molto colpito dal fatto che è un angelo del Signore che gli dà l'annuncio, non è Gesù stesso. E Gesù, fin dall'inizio di questa sua nuova vita, si affida ad altre creature perché diano l'annuncio. È l'angelo e poi sono le donne che vanno dai discepoli. E l'angelo arriva con grande potenza, con una dimensione soprannaturale che spaventa le guardie. Le donne anche un po' sono spaventate, ma non tanto. E l'angelo le rassicura: voi potete non aver paura, perché Cristo è risorto. Loro sono, queste donne sono come dalla parte di Dio, mentre gli altri, quei soldati, erano dalla parte di chi aveva condannato il Signore, lo aveva messo sulla croce. Hanno un atteggiamento di chi sospetta che i discepoli lo vogliano rubare. Per loro è giusto che la paura prenda il sopravvento e che rimangano come morti, perché si rendono conto che c'è una vita che è altra, che li supera totalmente, che li sbaraglia. Non hanno più nessun potere di fronte a questa vita così forte, questa luce così grande. Una sola creatura, dal vestito bianco come neve e dall'aspetto come di folgore, li tramortisce solo con la sua presenza. Ha una potenza inimmaginabile. Rotola una pietra pesantissima con un gesto e si pose a sedere su di essa, come a dire: questa potenza del cielo è infinitamente più potente delle potenze della terra, è infinitamente più forte del più forte degli uomini o di tanti uomini messi insieme che da soli fanno fatica a spostare quella pietra. L'angelo, che è un inviato, quindi non è Gesù stesso in questa scena del Vangelo di Matteo che si presenta e dà testimonianza della sua risurrezione, ma è già fin dall'inizio un altro, un angelo, un inviato, un suo messaggero. È lui che dice alle donne: non abbiate paura, sono le stesse parole di Gesù. E forse perché Gesù non voleva significare la sua risurrezione proprio con il non essere qui, non è qui nel sepolcro. Il sepolcro non è il luogo della morte, non è più il luogo della morte, è il luogo della risurrezione. E quindi è vuoto, Gesù non è più qui. Allora l'angelo dice alle donne e gli dà un altro incarico, le rende anche loro messaggeri, anche loro sono angeli del Signore. Sono inviate del Signore ed inviate ai discepoli. Sono così scelte da Dio perché sono quelle che si sono alzate prima, quelle più attente, quelle più innamorate, possiamo dire così. Sono anche scelte per questa passione che ha nostro Signore di sconvolgere gli schemi umani. Loro, le donne che allora erano ritenute, insomma, non valide per le testimonianze, non chiamate nei processi, erano ritenute appunto così volubili da non poter essere credute, invece le donne vengono scelte dal Signore per diventare le prime apostole degli apostoli. Allora, ecco, loro vanno, e vanno rapidamente a dire qual è il contenuto del loro messaggio, che il messaggio che gli viene affidato è risorto dai morti e vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Quindi Gesù è vivo, è risorto con la sua stessa potenza, il Padre si è chinato su di lui con un bacio ed è il nostro Signore che non morirà più. Ecco, e lui, qual è la sua caratteristica che l'angelo mette subito in evidenza e che le donne devono dire ai discepoli? È che lui ci precede, è che lui precede i discepoli e ci precederà sempre, è sempre la sua azione che viene prima, è sempre la sua chiamata che viene prima, e la nostra risposta viene dopo, e la sua ispirazione viene prima, e la nostra azione viene dopo. È sempre lui che ci precede in ogni strada che percorriamo come suoi discepoli. E infatti questo annuncio dell'angelo viene subito inverato, viene subito verificato come vero. Le donne, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. In effetti, in questo anche obbediscono rapidamente perché l'angelo dice a loro di fare presto, dice di fare presto. E loro fanno presto. Corrono a dare l'annuncio ai discepoli e in quel momento stesso in cui corrono a dare l'annuncio ai discepoli, il Signore appare, viene loro incontro. Ecco, le ha precedute, è prima di loro. Loro si rendono conto in quel momento che Gesù le accompagna su quella strada che le porta a dare l'annuncio ai fratelli, ai discepoli del Signore. E noi possiamo pensare, applicandolo a tanti momenti della nostra vita, che tutte le volte che obbediamo al comando del Signore o del suo angelo, all'ispirazione che l'angelo ci suggerisce, ed andiamo verso i nostri fratelli, verso le persone a cui il Signore ci invia, che spesso sono anche le persone a noi più vicine, le persone con cui lavoriamo, le persone con cui viaggiamo, le persone che amiamo, ma anche le persone che incontriamo nelle vicende più diverse della nostra vita quotidiana, della nostra vita normale, della nostra vita su questa terra. Ci dobbiamo sentire sempre come inviati da Gesù verso di loro. Ecco, in questa strada che ci porta verso i nostri fratelli, verso le persone, noi dobbiamo scoprire che Gesù ci precede. Incontriamo Gesù che quindi ci incoraggia e ci rafforza in quel nostro cammino. E Gesù venne loro incontro e disse: "Salute a voi." Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. È molto bello questo incontro, è molto bella la descrizione che ne fa anche il Vangelo di San Matteo. Gesù le saluta con un saluto normale che allo stesso tempo vuol dire anche l'augurio della salvezza. E loro si avvicinano, non hanno paura, anche in questo obbediscono all'angelo, non hanno paura. E gli abbracciarono i piedi. Doveva essere un gesto molto abituale, se non altro nei confronti di una persona così costituita in autorità e così amata. E lo adorarono, riconoscono che è il Signore, riconoscono che è il Figlio di Dio, credono, lo adorano. Lo adorano anche toccando senza paura, come è tipico delle donne che amano, il suo corpo risorto. Quindi non solo lo vedono con gli occhi, lo ascoltano con le loro orecchie, ascoltano la sua voce che le saluta, salute a voi, ma anche lo toccano con le loro mani e lo baciano con la loro bocca, lo adorano. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Quindi Gesù ripete e rafforza l'indicazione dell'angelo: non temete, non avete paura, non abbiate paura, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Quello che vi ha detto l'angelo, gli ho detto io di dirvelo. L'indicazione che lui vi ha dato, il suggerimento che vi ha dato, il comando che vi ha dato viene da me. E in questo vostro cammino verso i discepoli, io cammino con voi. Non siete da sole, non dovete avere paura. Annunciate ai miei fratelli la missione da apostolo che vi do, la vocazione da apostolo degli apostoli che io do a voi donne è vera e viene da me, anche se potrebbe sembrare a voi sconsiderata, fuori dalle abitudini. Dovete essere voi ad annunciare ai discepoli, a coloro che io ho costituiti come apostoli e che saranno le colonne della mia chiesa, anche a Pietro, che sulla cui pietra ho costruito la mia chiesa, siete voi a dover dire a lui che sono risorto. E poi addirittura gli dovete dire che vadano in Galilea, là mi vedranno. Anche loro potranno vedermi con i loro occhi, toccarmi con le loro mani e ascoltare la mia parola. Ebbene, questo metodo di Gesù e questo insegnamento con i fatti, noi lo notiamo anche in tante altre relazioni di questa notte santa e sconvolgente che è al centro della nostra fede e senza la quale la nostra fede sarebbe nulla. Lo notiamo come metodo nell'apparizione che racconta San Giovanni a Maria Maddalena: vai dai miei fratelli e di loro, no, che sono risorto e che salvo il Padre. E Maria va. E dobbiamo riflettere anche su un altro aspetto, che notiamo soprattutto negli altri Vangeli, non in Matteo, no? Che poi Gesù appare ai discepoli nel cenacolo. Maria va, Maria Maddalena va, e quella stessa sera, probabilmente con lei anche presente, Gesù appare in mezzo a loro. O i due discepoli di Emmaus che lo riconoscono allo spezzare del pane, lo riconoscono anche per la dolcezza, il fuoco delle sue parole che spiegava a loro con parole della Sacra Scrittura tutto il motivo profondo di come mai era successo questo, perché aveva dovuto soffrire tanto il Messia e per i nostri peccati, che era già tutto previsto nell'Antico Testamento. E anche loro vanno di sera, tornano indietro senza più paura del buio, degli assalti, tornano a Gerusalemme e raccontano ai discepoli, e in quello stesso istante Gesù appare di nuovo in mezzo a loro. È come se Gesù avesse voluto dire in questi altri Vangeli che lui è presente tra i suoi fratelli, è presente nella Chiesa. Noi lo sappiamo, no? Che Gesù risorto è presente nella sua Eucaristia è presente negli altri sacramenti, è lui che agisce, è presente nella liturgia, è presente nella parola di Dio, è presente quando due o tre riuniti nel suo nome, ecco, lui è lì. Quindi Gesù è all'inizio della vocazione, all'inizio del cammino, è lui che ci chiama, è lui che appare, a volte anche in modo improvviso, è lui che ci manda un angelo, è che ci manda una persona, che ci suggerisce la sua chiamata, è lui che ci... che è all'origine di quello che possono essere le ispirazioni di Dio o l'incarico che ci viene dato nella Chiesa. Lui è durante il cammino, come appare a queste donne, e lui è là tra i nostri fratelli. Forse possiamo fare un passo in più in questa fede nella presenza di Cristo nel suo corpo mistico, che è la Chiesa. E dobbiamo forse avere il coraggio di credere quello che il Signore ci dice, cioè che Lui è presente anche in noi, in ciascuno di noi. In fondo era quello che abbiamo letto nella veglia, nell'epistola di San Paolo ai Romani, quando San Paolo dice, crediamo, se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più, la morte non ha più potere su di Lui, infatti Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte, ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Noi viviamo in Cristo e Cristo vive in noi. Questo mistero grande della presenza di Cristo risorto nell'anima del cristiano, nella vita del cristiano, è spiegato in tanti modi nella Sacra Scrittura, e non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, dice San Paolo. E lo dice in tanti modi, cerca di manifestare questo mistero anche piegando il linguaggio, inventandosi parole, e per spiegare questo mistero del fatto che Cristo vive nel cristiano. E era una verità che illuminava anche la predicazione, l'apostolato di San José María. E se noi leggiamo, riprendiamo in mano l'omelia pasquale, no? Che c'è nel libro di Gesù che passa, Cristo presente nei cristiani, e notiamo molte sue affermazioni molto forti, molto belle, che ci conviene rileggere brevemente, alcune di queste perlomeno. Ecco, per esempio, diceva in quell'omelia: Cristo vive nel cristiano. La fede ci dice che l'uomo in stato di grazia è divinizzato. Noi non siamo angeli, siamo uomini e donne, esseri di carne e ossa, con un cuore e delle passioni, con tristezze e gioie, ma la divinizzazione trasforma tutto l'uomo come un anticipo della risurrezione gloriosa. Sono parole molto belle, è una verità della fede che San José María ha colto con molta profondità e che esprime con molta forza, e noi dobbiamo cercare di, chiedendo aiuto allo Spirito Santo, chiedendo aiuto alla potenza della resurrezione di Cristo, chiedendo aiuto alla Madonna che è la prima che ha visto il Cristo risorto e forse l'unica che in quella notte vegliava e sapeva che sarebbe accaduto quello che Cristo aveva promesso. Le chiediamo la grazia di capire un po' di più, di credere un po' di più questa verità che forse per la consapevolezza nostra che abbiamo in modo profondo e anche in modo immediato, perché abbiamo la consapevolezza di essere peccatori, di essere fragili, di essere deboli, ci notiamo a volte con una fede molto fiacca, allora facciamo fatica a credere davvero sul serio fino in fondo che Cristo è presente in noi e lo Spirito Santo ci trasforma in un altro Cristo, ci identifica con Cristo fino a poter dire con San Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Nella vita spirituale non c'è una nuova epoca da raggiungere, leggo sempre da quell'omelia: tutto è già dato in Cristo, che è morto ed è risorto e vive e permane in eterno. Bisogna però unirsi a Lui mediante la fede. Ecco, gli diciamo adesso: credo in te, Gesù risorto, credo in te, mi lancio ai tuoi piedi come queste donne che ti hanno trovato lungo la via e ti adoro come mio Signore e mio Dio, come San Tommaso, Signore mio e Dio mio. Bisogna però unirsi a Lui mediante la fede, lasciando che la sua vita si manifesti in noi a tal punto che di ogni cristiano si possa dire non solo che è alter Christus, un altro Cristo, ma ipse Christus, lo stesso Cristo. E così, essendo ciascuno di noi lo stesso Cristo, vivendo Cristo in noi, è attraverso di noi che vuole il Signore farsi presente in mezzo agli uomini, attraverso i cristiani, in tutti i luoghi della terra, in tutti i luoghi di lavoro, in tutti i luoghi di svago, in tutte le famiglie, in tutti i sentieri, in tutte le strade, in tutti i mezzi di trasporto. Cristo è presente in tutti i mari, in tutti i cieli. Cristo è presente in tutte le situazioni più dolorose e in quelle più gioiose. E infatti, leggo in quell'omelia, ogni cristiano deve rendere presente Cristo fra gli uomini, deve agire in modo tale che quelli che lo avvicinano riconoscano il profumo di Cristo, come dice San Paolo, deve comportarsi in modo che nelle azioni del discepolo si scorga il volto del Maestro. Questa è già la conseguenza, cioè consapevoli che Cristo è in noi e per la potenza della sua presenza in noi, allora abbiamo la possibilità di comportarci come Lui, la possibilità che ci viene data da Lui, abbiamo addirittura la possibilità di amare come Lui ci ha amato. Non è possibile separare in Cristo il suo essere Dio uomo e la sua funzione di Redentore. Il Verbo si fece carne e venne sulla terra, ut omnes homines salvi fiant, per salvare tutti gli uomini. Nonostante le nostre miserie, i nostri limiti, ciascuno di noi è un altro Cristo, lo stesso Cristo, anche noi chiamati a servire tutti gli uomini. E quindi, ancora meditando questo bellissimo mistero della nostra fede, e scriveva San José Maria, mi riempie di gioia considerare che Cristo ha voluto essere pienamente uomo, di carne come noi. Mi commuove contemplare il fatto meraviglioso di un Dio che ama con un cuore umano. E ricordando la delicatezza umana di Cristo che spende la sua vita al servizio degli altri, facciamo molto di più che scoprire un possibile modo di comportarci. Stiamo scoprendo Dio. Ogni azione di Cristo ha un valore trascendente, ci fa conoscere il modo di essere di Dio, ci invita a credere nell'amore di Dio che ci ha creati e vuole portarci nella sua intimità. Così noi, considerando quello che tante volte insegna Papa Francesco, che il Signore è venuto a instaurare con la sua incarnazione la rivoluzione della tenerezza. Noi scopriamo la tenerezza di Dio, l'amore misericordioso di Dio che si è immolato in Cristo per tutti noi, per dirci quanto ci ama, per dirci che ogni peccato può essere perdonato, per attrarci a Lui attraverso la forza attrattiva della croce e della resurrezione. E così, noi attratti da Cristo possiamo meditare e riflettere e commuoverci e credere fermamente e decidere di vivere così, capire che Lui ci ha chiamato per diffondere nel mondo la sua misericordia, il suo amore, la sua tenerezza. Ogni situazione umana è irripetibile, scriveva San José Maria, è il risultato di una vocazione unica che si deve vivere intensamente, realizzando in essa lo Spirito di Cristo. Ogni vocazione è unica, ciascuno di noi è chiamato a portare Cristo dove forse nessun altro lo potrebbe portare, ad essere Cristo dove nessun altro potrebbe esserlo, perlomeno come possiamo esserlo, ciascuno di noi, con i doni che il Signore ci ha dato. Con quelle qualità che, pur essendo poche, sono vissute in modo unico da ciascuno di noi. E il Signore Gesù si basa su di noi, conta su di noi, come su quelle donne che andarono per prime al sepolcro. E quando si vive cristianamente fra i propri simili in maniera non appariscente ma coerente con la fede, ciascuno di noi è Cristo presente fra gli uomini. E avviandosi alla conclusione di quell'omelia, che San José Maria diceva e ricordava il comandamento nuovo dell'amore, non voglio concludere senza un'ultima riflessione: il cristiano nel far presente Cristo in mezzo agli uomini, essendo Cristo egli stesso. Pensate, non leggiamo queste parole così con superficialità, soffermiamoci sulla loro potenza enorme, rivoluzionaria, essendo Cristo egli stesso. Non cerca solo di vivere un atteggiamento d'amore, ma anche di far conoscere l'amore di Dio attraverso il suo amore umano. Chiediamo al Signore di aiutarci a respingere la tentazione che a volte ci viene di pensare che il nostro amore umano è da una parte e il suo amore di Cristo, il suo amore di Dio è da un'altra. E no, noi possiamo manifestare l'amore di Dio attraverso il nostro amore umano, non abbiamo un'altra possibilità. Amava dire anche San José Maria, abbiamo un solo cuore, lo stesso cuore con cui amiamo i nostri cari. E quel cuore con cui amiamo Dio, nell'intimità di questo cuore si fondono tutti questi amori. Non dobbiamo avere paura neanche noi di amare, non dobbiamo avere paura di credere, di ascoltare l'angelo, di avvicinarci a Gesù che appare a noi sulla via, di andare dai discepoli anche se avessimo la paura di pensare che forse non ci ascoltano, che forse non abbiamo sufficiente autorità per dirgli Cristo è risorto. Se ciascuno di noi avesse la capacità, la fede e l'amore per ricordare a un suo fratello o una sua sorella nella fede quando è il momento: guarda, fratello mio, sorella mia, che Cristo è risorto, davvero, Cristo è risorto ed è risorto davvero. Allora, ecco, la nostra vita sulla terra, pur con tutte le sue prove, potrebbe avere e avrà e ha, quando viviamo così, una bellezza, una dolcezza, come di anticipo del cielo. Ecco, in questa festa di Pasqua noi annotiamo che è anticipato il cielo, è anticipata la nostra resurrezione, è anticipato, intravediamo i nuovi cieli e la nuova terra, una fraternità senza macchie, senza peccati, senza soste, senza stancarci mai. Un amore che sazia senza saziare, e lo desideriamo anche per la nostra vita futura, ma lo desideriamo anche per qua giù sulla terra. Cerchiamo di ascoltare il Signore che ci invita a vivere così, il Papa che ci invita a vivere così, tutti i pastori della Chiesa che ci invitano a vivere così, i nostri fratelli e le nostre sorelle, le donne che hanno visto Cristo risorto, che ci invitano a vivere così. Santa Maria, tu che eri l'unica in quella notte che vegliavi, l'unica che aspettava quella luce, la prima che l'ha vista, aiutaci a credere in Cristo risorto e presente nella nostra vita e che parla e che agisce attraverso di noi.